Io prima di passare il microfono a Dado Giannulli vi ricordo, cioè, ovviamente il microfono è a disposizione di tutti, qualsiasi domanda è più che ben accetta. Tra le altre cose io inviterei i tanti adulti, tanti, passatemi il termine che spero non sia offensivo, vecchi, che sono presenti in sala e che hanno vissuto quegli anni, alcuni in maniera anche abbastanza, insomma, appassionata, diciamo così, a intervenire al dibattito. Gli interventi sono stati rapidi, per cui spero riusciremo a fare un altro giro. Adesso l'autore ci dirà qualcosa. Funziona? Sì. Quando parlavi di vecchi parlavi di altri, spero. Grazie. Allora, innanzitutto io devo ringraziare la Fabio Carelli e Piero Scaramucci che sono qui e che hanno detto parole fin troppo positive sul mio libro, che forse vanno al di là dei meriti che ha. Devo ringraziare però anche altre due persone, quindi una sola per esempio in sala, che sono Alessandro Lacretti ed Alessia Dimitri, che hanno lavorato con me alla BUR a questo libro. Vi garantisco che senza di loro questo libro sarebbe stato molto meno leggibile di quanto non sia adesso, dopo gli interventi sulla purtroppo una lunga esperienza di pubblicazione di tipo accademico crea delle deformazioni terrificanti dal punto di vista della scrittura, per cui l'intervento di altri è necessario per renderla più accettabile. Io sulla controinformazione ho iniziato a scrivere già da tempo e già un annetto fa, un po' meno, ho pubblicato una specie di premessa a questo libro in un saggio pubblicato dalla rivista Libertaria, rivista di redazione faccio parte, dove cercavo di introdurre un concetto, la controinformazione come fenomeno tipicamente italiano. La controinformazione è un po' come la mafia, è un prodotto di esportazione, è una delle cose che abbiamo esportato all'estero. Se voi sfogliate i dizionari di lingua inglese, francese, spagnola, tedesca, vedrete che la parola controinformazione ha un significato puramente militare. La controinformazione è il contrasto informativo, è la contropropaganda in realtà. Solo la lingua italiana nei suoi dizionari dà una spiegazione diversa. La controinformazione è l'informazione alternativa alle fonti ufficiali del potere, eccetera, eccetera. Questo perché la controinformazione è stata un'esperienza italiana. Se poi andate su internet e provate a digitare la parola controinformazione in inglese, francese, spagnolo, vedrete che invece l'uso che viene fatto normalmente è nel senso italiano, non nel senso dei dizionari delle rispettive lingue. Quindi per questo dicevo, questo è un fenomeno tipicamente italiano, legato alla storia del nostro paese. E vengo al motivo del perché ho voluto scrivere questo libro. Io credo che sia arrivato il momento di consegnare alla storia gli anni 70. Vedete, questo è il quarantesimo del 68. E avete visto che escono già una serie di articoli, di libri. Devo dire che la mia reazione è una reazione terribilmente annoiata. Prevale nettamente la nota della Marcor, sembra che il 68 sia stato ieri, sembra che ancora oggi ci si debba schierare fra gli studenti del quartiere latino e Charles de Gaulle, o peggio ancora, nelle polemiche fra gruppi di estrema sinistra, fra la Guardia Operaia, Lotta Continua e il Manifesto. Questo è molto triste, anche perché crea una situazione indebita di questa generazione infinita che è sempre, perché vive in un eterno presente. Diceva Mark Bloch che ogni generazione ha diritto ad essere la prima a scrivere la propria storia, ed è giusto, è vero. Naturalmente la storia che scriverà una generazione su se stessa è diversa da quella che scriveranno le generazioni successive, perché è diverso il rapporto emotivo, perché diverso è il grado di partecipazione, anche il grado di intelligenza degli eventi, perché ovviamente molte cose, a me che il 68 l'ho vissuto, sono abbastanza vecchio, come dice indelicatamente il nostro moderatore, di aver vissuto il 68, E molte cose a me dicono sugli anni 70, capisco subito una sigla, un nome, un personaggio, mi ricordo subito qualcosa, che evidentemente a uno più giovane non dice con tanta immediatezza. Però è anche vero che come capacità di guardare, di allontanarsi dal quadro per vedere l'insieme, le generazioni che vengono dopo hanno maggiore capacità che non la generazione che ricorda il proprio passato e fa il bilancio della propria vita. Questo perché c'è un momento molto delicato in cui devi fare un'operazione. La memoria deve trasformarsi in storia. Sono due cose diverse. Nella memoria può esserci ancora un forte sedimento di emotività. Può esserci partecipazione, può esserci ancora bisogno di appartenenza, di schierarsi da qualche parte. Quando si passa dalla memoria alla storia, tutto questo deve cessare. L'unico approccio che è accettabile è un approccio laico per il quale vedi le cose che hai fatto tu e la tua parte esattamente con la stessa indifferenza con cui vedi quello che hanno fatto gli altri. Per il principio per cui non si possono rivendicare diritti che non si è pronto a riconoscere agli altri, per il principio per cui non si può chiedere la verità che non si è disposti ad ammettere, non si può chiedere ad altri di la verità di quello che hai fatto se non sei disposto tu a dire la verità su quello che hai fatto. Questo esige, impone un atteggiamento laico, una presa di distanza dalla propria parte. Io quell'esperienza l'ho vissuta, ho cercato però di distaccarmi il più possibile, non so con quanto risultato, e cercando di non negare anche gli aspetti negativi della controinformazione. Sia chiaro, io sostengo, credo di essere sereno nel dirlo, che il bilancio, la somma algebrica dell'esperienza della controinformazione sia positiva, che la controinformazione abbia giocato un ruolo fondamentalmente attivo, positivo, nel difendere la democrazia di questo paese. Ha creato una coscienza dei difetti delle nostre istituzioni, dei limiti della nostra democrazia, che è la premessa per poterla in qualche modo migliorare, per poterla superare i limiti stessi. Però credo che non andassero nascosti i momenti, le pagine poco belle di questa storia. Il saldo è positivo, ma non mancano gli addendi negativi. C'è stata la vicenda terribile di Prima Valle, terribile due volte, sia perché è un attentato compiuto da un gruppo di potere operaio che provoca un incendio nel quale muoiono due persone, un bambino di 8 anni, figlio del segretario della sezione del movimento sociale del quartiere. È già di per sé una cosa abbastanza atroce questa, ma se a questo poi ci si aggiunge il fatto che il gruppo in questione ci scrive su un libro per costruire un'improbabile pista interna al movimento sociale, quindi fa un'opera di depistaggio assolutamente uguale a quella che hanno fatto gli apparati dello Stato per proteggere i diversori di estrema destra, e vuol dire che il conto raddoppia, è un atto moralmente inqualificabile, anche e soprattutto perché aggiunge al crimine l'inganno, inganno del quale, guardate, è stata vittima prima di tutto il resto della controinformazione che in buona fede credette a quella indicazione e seguì quella campagna. Ecco, una pagina come questa, una pagina molto brutta, che secondo me non va nascosta. Non va nascosta perché se vuoi ottenere il riconoscimento delle cose positive che ci sono in esperienza, non devi tacere quelle negative. È un equilibrio che occorre mantenere sempre. E questo perché? Perché quando si fa storia, le cose che contano sono tre. Stabilire com'è andata, stabilire perché è andata in quel modo, stabilire che eredità ha lasciato quel passato. 68 è definitivamente passato, convinciamoci di questo, non lo dico tanto ai giovani che probabilmente si sentono perseguitati da questa cappa di piombo che gli abbiamo scatenato addosso dell'attesa di un nuovo 68. Ho letto ultimamente il libro del mio amico Mario Capanna che scrive delle premesse del nuovo 68. Io Mario vorrei dire, forse ci sarà una nuova ondata di movimenti, io me lo auguro, che so, nel 2019, ma non sarà un 68, non sarà una cosa, sarà un 19, sarà una cosa nuova, diversa sul campo dei problemi presenti in quel momento, con i soggetti di quel momento. Certo, i soggetti, soprattutto collettivi, non nascono da nulla, nascono anche da un'eredità. E la controinformazione va lasciata. Io in questo senso sono convinto che Carlo Lucarelli fa certamente non della controinformazione nel senso di raccolta informativa, ma prosegue in qualche modo l'opera della controinformazione, ne è erede nella misura in cui prosegue questo atteggiamento di vaglio critico dell'operato della polizia giudiziaria, della magistratura, delle istituzioni, questo atteggiamento di diffidenza costruttiva, diciamo, critica, è una cosa prodotta dalla controinformazione. In nessun altro paese come in Italia noterete che c'è una diffidenza, se volete, istintiva nei confronti della versione ufficiale che viene data immediatamente di noi. Ma penso anche ad altro, per restare sul terreno artistico, il teatro di Renato Sarti e Diego Storti non è una ripetizione del teatro di Dario Fo, ma probabilmente non sarebbe lo stesso se non ci fosse stata quell'esperienza. Ne rappresenta in qualche modo uno sviluppo creativo che ha digerito molte altre esperienze, ha integrato molte altre cose, si muove sul terreno dell'oggi, ricordo lo spettacolo molto bello sull'immigrazione, ma il cinema di Giordana, altri esempi del genere, il libro per restare sulla letteratura di Saramsko, eccetera, sono tutti in qualche modo figli di quell'esperienza, ma i figli, come è noto, riportano alcuni elementi del genoma del padre, ma non sono identici, per fortuna. Sono diversi, tendenzialmente migliori, se crediamo nella evoluzione della specie, e in qualche modo pongono le premesse per qualcosa di diverso che verrà ancora. È per questo che io credo che occorra superare l'aspetto della mancorda. E guardate che la mancorda è tanto degli apologeti del 68 che parlano del 68 come un'epoca mitica, età dell'oro, un'occasione mancata forse, che poteva realizzare molto di più e non l'ha fatto perché gli altri gli hanno impedito, quanto la mancorda è anche quello di chi, penso al libro di Berselli per esempio, o al libraccio di Marcello Veneziani, invece dico il 68 il male assoluto, di lì tutto iniziato ad andare male, cioè sono la riproposizione degli schieramenti che c'erano anche allora. Tutto questo va superato, occorre, torno al discorso iniziale, passare dalla memoria alla storia. È giusto che sia la nostra generazione iniziare a farlo, perché ogni generazione deve scrivere il bilancio del proprio passaggio, ma deve entrare nell'ordine di idee, che appunto è arrivato il momento di passare il testimone. Ma speriamo, ma non immediatamente, insomma, ancora un po' conterremmo di trattenerci e di fare qualche altra cosa, ma comunque senza pensare che i figli debbano essere la proiezione dei desideri realizzati dei padri. I figli hanno una sovranità sulla propria vita, decideranno loro cosa fare. Noi possiamo lasciare un bilancio di quello che abbiamo fatto, un'eredità. Loro a loro volta ci si augura abbiano altrettanto rispetto dei loro figli successivamente. E questo il passaggio dalla memoria alla storia. È una presa di distanza, è un bilancio, è il confrontarsi con quello che è il senso. Clio, la musa della storia, prometteva ai suoi seguaci la fama. Ma cos'è la fama? È semplicemente l'idea di scremare quel che va ricordato da quel che va dimenticato. È un setaccio che fa cadere la cenere e trattiene ancora per un po', perché il linguaggio di Clio per sempre significa soltanto per tanti, non illudetevi più di tanto, ma insomma in qualche modo trattiene il senso di quel che è accaduto. Io ho cercato, in limiti molto modesti, di trattenere il senso di un segmento di quell'esperienza, l'esperienza del 68 nella sua proiezione del confronto, scontro con le istituzioni dello Stato, dove ci si batteva sul terreno della qualità della nostra democrazia. È riuscito questo, non è riuscito? È riuscito, secondo me, parzialmente. Comunque è un sedimento importante che credo valga la pena di studiare, del quale valga la pena di discutere. Vi ringrazio.